quando siamo insieme il tempo prima avanza e poi va all'incontrario. Per ogni nostra guerra penso a tutti i baci che ci hanno rubato. Ci siamo detti basta senza mai dirci addio, perché sappiamo già che un giorno ci rincontreremo. In una vita o un'altra con te ci sarò io. Ciò che vedo è sfocato ma tu resti in primo piano. E allora torno indietro solo un attimo. Tutte le volte che sono insieme a te è come un evento rivoluzionario. Uno scisma ad oriente, il crollo di Cartagine. Tutte le volte che ti dico ti amo, soltanto per te il mare muove le maree. Il tempo sposta le lancette, scrive nuove pagine. Quando stringo la tua mano crolla il muro di Berlino, cade l'impero romano. All'epoca eravamo quello che nessuno poteva immaginare. In mezzo a mille secoli di storia alla corte dell'imperatore. Non te l'ho detto mai, ma tu lo sai per me. Sei ciò che non credevo potesse più esistere. Se un giorno te ne andrai, vorrei sapessi che siamo sempre stati noi dentro quel bacio di Times Square. Tutte le volte che sono insieme a te è come un evento rivoluzionario. Uno scisma d'Oriente, il crollo di Cartagine. Tutte le volte che ti dico ti amo, soltanto per te. Le accette, scrive nuove pagine. Quando stringo la tua mano crolla il muro di Berlino, cade l'impero romano. Noi due come satelliti che han visto da vicino anche la luna. Ci siamo amati così tanto che non ho memoria, ma ricomincerei da capo fin dalla preistoria. Insieme a te è come un evento rivoluzionario, uno scisma d'Oriente, il crollo di...